vibe. Ehi, sì, sì, 2009, l'espressione. Guardi in faccia mentre lo facciamo, niente di più eccitante di quando mi dici ti amo. Mi stringi la mano, mi stringi tutto quanto quando sta arrivando e tu stai già ansimando, toccandoti come sei bella, leccandoti con la Nutella, amandoti. Ho doti acquisite dalle tue cosce squisite, quando vi aprite varco il confine piazzando mine, linee sinuose di cui voglio un'altra dose. Varco le acque come Mosè, stai con me dove vuoi che ti tocchi, poi chiudi gli occhi, movimenti lenti e forti, voglio sentirti, colpirti mentre ti tolgo i vestiti. Ancora la mente non pensa, la voglia ti divora, ora voglio farlo ancora, butto l'ancora, resto da te per un'altra ora. Quei movimenti e il calore che addosso a me e a lei, sacro figlia, è una combinazione, dalla lingua al tatto al cambio di posizione. Quei movimenti e il calore che addosso a me e a lei, sacro figlia, è una combinazione, dalla lingua al tatto al cambio di posizione. Forme bianche per la bronzatura chiara, la tua pelle ora scura, sei poesia come Neruda, nuda, cruda, senza trucco. Il tuo trucco è la magia di cui rimango di stucco, sul letto vicino quando il freddo del mattino lo senti con un brivido e la testa sul cuscino, e la coperta non ti scalda abbastanza. Accorciamo la distanza, chiudiamo la stanza, avanza il tempo lento, ogni momento con frequenza aumento, come benza alimento le grida tue che sento, cimendo, partendo con la testa e non capendo. In questo momento poi mi soffermo sdraiandomi, abbracciandoti, stando qui insieme, sto ad ascoltare il battito del tuo cuore che da veloce poi diventa regolare. Quei movimenti e il calore che addosso a me e a lei, sacro figlia, è una combinazione, dalla lingua al tatto al cambio di posizione. Quei movimenti e il calore che addosso a me e a lei, sacro figlia, è una combinazione, dalla lingua al tatto al cambio di posizione. Quei movimenti e il calore che addosso a me e a lei, sacro figlia, è una combinazione, dalla lingua al tatto al cambio di posizione. Quei movimenti e il calore che addosso a me e a lei, sacro figlia, è una combinazione, dalla lingua al tatto al cambio di posizione.